Vendo tutto di Matteo Caccia. La Vespa, il frigorifero, il corso di tennis e quello d'arrampicata, il divano, il cellulare, la TV, l'abbonamento a teatro, l'attrezzatura da sci e quella da sub, l'orologio da polso e quello da parete. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una tenda da campeggio. Le 16:07, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia, vendo tutto e... non l'ho ancora detto, quindi ve lo dico ufficialmente adesso. Abbiamo un profilo Facebook. È inutile che facciate ruotare le manine nell'aria, come dire, sai che novità, ce l'hanno tutti, perché il problema è esattamente quello, che il problema è non avere Facebook, non avercelo. Matteo Caccia vendo tutto il profilo Facebook e ovviamente abbiamo un profilo anche su eBay, dove gli oggetti sono in vendita. Anzi, gli diamo un occhio. Abbiamo la bottiglia, l'asta è ancora aperta per 6 giorni ed è arrivata 8 offerte, 7 euro. Partenza, vi ricordo, 90 centesimi. La chitarra ve la vendevamo ieri, partenza 90 centesimi anche quella, è già a 15,50 euro, 5 offerte. E oggi siamo arrivati alla tenda da campeggio. La cosa bella però è che sia Facebook sia eBay potete arrivarci semplicemente dal sito radio24.it. Per scrivermi invece vendo tutto @radio24.it e io ho notato una cosa, ho notato che ve la siete proprio presa a cuore questa storia, cioè vi siete presa a cuore come se stessi vendendo i vostri oggetti, il fatto che io venda tutti i miei oggetti. Fondamentalmente mi scrivete che gli oggetti sono importanti perché raccontano una storia, raccontano parte della nostra vita. Guarda, due su tutte. Allora, direi Massimo mi racconta in una mail che mi ha mandato ieri, questa mattina, mi racconta che c'è una panchina di un bar storico nella provincia di Pistoia dove lui ha conosciuto sua moglie, si sono baciati la prima volta, si sono innamorati, l'hanno venduta quella panchina, non so chi abbia venduto la panchina, comunque da quando lui passa lì davanti e non la vede è molto triste. E la stessa cosa mi scriveva Cristina, che preventivamente ieri, quando ha sentito che oggi avrei venduto la mia tenda, che è già in vendita da adesso su eBay, mi scriveva ieri non vendere la tenda e mi raccontava la storia della sua tenda. Ecco, confermate esattamente quello che vi sto raccontando, ed è che non sono importanti gli oggetti, secondo me sono importanti le storie che ci raccontano, no? Le storie che hanno fatto parte della nostra vita. La stessa cosa vale per la tenda che vendo oggi. Allora, è una tenda da campeggio, veramente quelle che si lanciano e in 3 secondi sono aperte, e vi giuro che funziona, e si apre, e in 15 secondi dopo uno strano numero, sì, giustamente anche Laura Faggin dice bisogna fare uno strano numero, ma vi assicuro che si richiude. Perché parlo della mia tenda? Perché la vendo e sono contento di venderla per la prima volta, forse. Io ho un rapporto difficile con il campeggio, lo ammetto, mi sembra impossibile che qualcuno abbia voglia di passare le proprie vacanze in un posto dove si deve montare una tenda, dove fa un caldo torrido, dove ti porti dentro la sabbia nella tenda. E poi oggi vi spiegherò qual è stata la mia ultima esperienza con il campeggio. Quindi, se voi amate il campeggio, io, guardate, sono qua, sono disposto, convincetemi, il campeggio è una cosa che si può fare. 800240024 oppure 349-238-6666, convincetemi, sono pronto. 800240024. Veniamo alla tenda, se volete vederla radio24.it, magari anche fare la vostra offerta su eBay, se volete sentire la sua storia, invece, ecco qua. La tenda. Tenda 2 posti a montaggio istantaneo, ripiegabile in 15 secondi. Marca Quechua. Modello 2 seconds. Colore verde. Dimensioni da aperta. Camera di 2,10 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza. Dimensionata per 3 adulti, molto confortevole per 2. Doppio tetto in poliestere, camera in poliestere traspirante, pavimento in polietilene, paleria in fibra di vetro piena, totalmente impermeabile. Ingresso, frontale, efficace e comodo, porta grande AD con una sola zip. Dimensioni da chiusa, si presenta come un disco piatto di 70 cm di diametro, peso 3,7 kg, anno di produzione 2009, aperta una volta ma mai usata. Ottima per chi ama il campeggio ma non vuole perdere troppo tempo nel montaggio. Valore commerciale 35 euro, base d'asta vendo tutto 90 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Il campeggio. Ho sempre pensato che in fatto di gusti per le vacanze le persone non si dividano in chi preferisce il mare o la montagna, ma in chi ama il campeggio e chi lo odia. Non credo ci siano vie di mezzo. Cioè, non credo che uno possa farsi andare bene una settimana in vacanza in campeggio. Cioè, o hai scelto di andarci sapendo cosa ti aspetta, oppure finirai per considerarlo un supplizio. I primi ricordi che ho di una vacanza in campeggio sono quelli di un campeggio a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Avevo 3 anni. I miei si erano comprati sta tenda di 80 metri quadri, di quelle con 2 camere, un soggiorno e una cucina separata. Roba che con quello che paghi per la piazzola vai in albergo una settimana in pensione completa. Di quel periodo ho qualche vago ricordo dell'odore di carne arrosto e delle foto che i miei tengono in una scatola di latta. Ho un ricordo migliore, decisamente, però, invece, dell'estate in campeggio con i miei compagni di liceo. Eravamo in 4 e avevamo preso una tenda da 3. Di quella forma di igloo, avete presente, no? Pensavamo che avremmo dormito poco e che non ci interessava stare comodi, per quello avremmo avuto tempo da vecchi. Avevamo 18 anni, ci mancava un anno di liceo e qualche competenza in fatto di campeggio. Uno di noi che aveva fatto lo scout aveva portato un fornellino a gas per cucinare un po' di pasta. In realtà però quello che ci mancava erano i fondamentali, tipo le ciabatte da doccia, il tappetino da mettere sotto il sacco a pelo e le creme protettive. Inutile dire che quella vacanza fu un bagno di sangue. Da allora ogni volta che passo davanti ad un campeggio rallento, giuro, per guardare dentro e cercare di capire se quelli che li frequentano sono alieni o sono semplicemente persone con gusti diversi dai miei. Ho letto da qualche parte che gli abitanti del nord Europa hanno una predilezione per il campeggio perché passano 10 mesi all'anno chiusi in casa per il freddo e quindi per loro il campeggio è la quintessenza della vita all'aria aperta. Che poi anche diciamocela, sta storia della vita all'aria aperta, secondo me, è decisamente sopravvalutata. Va bene quando c'hai 10 anni, tua mamma non ti vuole troppo tra i piedi, quindi ti invita ad andare fuori a giocare e a prendere un po' d'aria. Ma dai 20 anni in su, cioè il concetto di vita all'aria aperta, perdere significato. Voglio dire, perché dovrei andare all'aria aperta se tutte le cose che voglio fare a 20 anni, giocare ai videogiochi, ascoltare la musica, pomiciare, le faccio al chiuso? Poi cresci. Quando esci dall'ufficio, pure le cose che potresti fare all'aria aperta te le fanno fare al chiuso, tipo correre sul tapis roulant o abbronzarti davanti a una lampada. Ecco perché ho sempre pensato che quella della vita all'aria aperta fosse una grande ipocrisia. L'ho pensato anche quando la mia ex, l'estate scorsa, mi ha chiesto di andare in campeggio, visto che sentiva il bisogno di passare un po' di tempo all'aria aperta. Giuro che ho usato queste parole, aria aperta. E allora sono andato a comprare una tenda, nuova, pensando che poteva essere l'occasione buona per riconsiderare il campeggio. E ovviamente mi sbagliavo. Well, early in the morning, about the break of day, I asked the Lord, help me find a way, help me find a way, help me find a way, to the promised land, to the promised land, this lonely body, needs a helping hand. About my head in prayer, I pray to the Lord, won't you leave me there? Won't you guide me safely through the golden stair? Judgment comes, find the world in shame. When the trumpet blows, won't you call my name? Won't you call my name? When the thunder rolls and the heavens rain, when the sun turns black, never shine again. Never shine again when the trumpet blows. Won't you call me, please? Call my name. La tenda che vendo oggi l'ho presa in una famosa catena di negozi per articoli sportivi. È stata aperta e richiusa nell'arco di poche ore, quindi è praticamente nuova. Non è che sto facendo il venditore, di quelli che pur di venderti qualcosa ti direbbero che l'ha fatta la loro mamma con le sue mani prima che morisse. No, io voglio solo raccontarvi perché questa tenda non è mai stata utilizzata. Allora, avevo deciso che la mia prima impressione sul campeggio fosse stata prematura, che non gli avevo concesso nemmeno una chance in più dopo quell'estate in 4 in una tenda da 3. Quindi ci avevo messo tutta la mia buona volontà. Vuoi campeggio, amore mio? E campeggio sia. Comprata tenda nuova, sacchi a pelo estivi, materassini gonfiabili, fornellino e stoviglie infrangibili, lampada per la notte e soprattutto ciabatta per la doccia. Il campeggio era in una pineta sulla costa orientale della Sicilia, nel nulla ma a pochi chilometri da tutto. Vita mondana, spiagge affollate, supermercati, pasta col forno e arancini. Era una sorta di comune degli amanti della vita all'aria aperta, gestito da fricchettoni olandesi che si erano trasferiti lì 20 anni prima, quando credevano che il mondo sarebbe andato allo sfascio e loro non volevano esserne complici. In questo campeggio si parla inglese, si cucina a turno uno alla volta ogni settimana e si mangia tutti insieme su lunghi tavoli di legno. Vi invito ad andare a cercare le foto su internet, vi assicuro che non sembra male, visto da fuori, ma è quando ci si arriva che comincia la rumba. Allora, visto che rispetto alle altre la nostra tenda era piccola, ci hanno messi in una posizione privilegiata, ci hanno detto, al limitare della pineta, con una splendida vista mare. Peccato che quando siamo arrivati, verso le 3 del pomeriggio, il sole già ci batteva da almeno 6 ore e la temperatura non prometteva niente di buono. Dopo aver montato la tenda sono andato verso le docce, ma ho scoperto che servivano i gettoni, ovviamente, e che la cassa era chiusa fino alle 7 perché prima tutti riposavano. Mi sono diretto verso lo spaccio per prendere qualcosa di fresco, ma ci ho trovato solo bevande scandinave, tipo roba alla mela e al ciclamino, e quindi ho declinato. Sono tornato verso la tenda, mi sono dovuto chinare per aprire la zip dell'ingresso e ho cominciato a capire che forse avevo sbagliato. Ho cominciato a pensare che stavo invecchiando e già questo mi faceva arrabbiare. E soprattutto che non ce l'avrei mai fatta per 2 settimane ad abbassarmi ogni volta che dovevo entrare in casa mia. Mi sono malamente pulito i piedi dalla sabbia, ovviamente prima di entrare, ma non è bastato. Appena dentro mi sono accorto che l'interno della tenda era già pieno di sabbia, che si era infilata dappertutto, anche nei sacchi a pelo. Ma la cosa più terribile era che non c'era verso di buttarla fuori, se non capovolgendo tutta la tenda sotto sopra. Mi sono seduto per cercare di ragionare, per non farmi prendere dal panico, ma il panico mi è assalito quando nel silenzio rovente delle 4 del pomeriggio di agosto ho sentito il vicino di tenda che russava come un San Bernardo raffreddato. Sono uscito, ho smontato tutto e siamo andati in albergo. Nonostante tutto, nonostante il campeggio, nonostante ci abbia provato gli olandesi che volevano cambiare il mondo, questa tenda è in vendita e per la prima volta ne sono contento. Il suo valore sul mercato è di 35 euro, ma la base d'asta qui è 90 centesimi. E adesso dai, provate a convincermi che è bello andare in campeggio. 80024 0024. Tutto Radio 24, sono le 16:20, 349-238-6666, ringrazio Fabrizio da Valenza che mi scrive: ti ho inquadrato, tu sei uno di quelli che, attenzione, sono furbo solo io, bravo, Fabrizio, anch'io ti ho inquadrato, tu sei uno di quelli che guarda gli altri e ti dice, sì, sei furbo solo tu. Intanto arrivano i messaggi, il campeggio va fatto con le persone giuste, bisogna sapersi organizzare, altrimenti è un disastro, ma sono pronto a farmi convincere, 80024-0024, perché il campeggio è bello. Danilo da Milano, pronto Danilo? Ciao, eccoci qua. Raccontami per quale motivo io dovrei essere contento di infilare i gettoni nella doccia e non sapere quando la doccia finisce. No, non puoi limitare tutto a questo. Ok. Io sono convinto che è una questione di esperienze. Nel senso, ho scoperto che ci sono solo persone che odiano il campeggio e persone che lo amano. Ok, e fino a qui io sono la prima parte. Ok, io ho passato 10 anni della mia vita quando ero piccolo con i genitori in un campeggio della Sicilia orientale. Pure tu? Ma era gestito da olandesi fricchettoni? No, no, che non era lo stesso allora. Ok, ok. Però diciamo che sono cresciuto in quel campeggio e si sviluppa un affetto, un legame molto importante con tutte le dinamiche del campeggio, anche quelle un po' spiacevoli. No, Danilo, quanti anni hai adesso tu? Adesso ne ho 28. E ci vai ancora in campeggio? Ultimamente non mi è più capitato di andare in campeggio. Però allora di cosa parliamo, Danilo? È un'eccezione, insomma, è un caso che non ci sia più andato. Ma tutte le esperienze più belle che ho fatto anche dopo sono avvenute in campeggio. Fammene un esempio però di un'esperienza bella, Danilo. Anche la mia prima volta è stata in campeggio. Oh, questa è una buona esperienza. Grazie Danilo, quasi ce l'hai fatta. Ciao, grazie mille. Ciao, Simone da Livorno, pronto Simone? Ciao, buonasera. Buongiorno, sì, buonasera o buongiorno, come preferisci. Allora, dopo mezzogiorno a regola dovrebbe essere. Bravissimo. Senti, per quale motivo dovrei accettare la promiscuità del campeggio? Ma soprattutto, perdonami, l'odore dei bagni del campeggio. È quello il bello. Se non ti piace l'odore, puoi andare sulla spiaggia, puoi andare nel bosco. Che problema c'è? Senti, tu fai campeggio ancora, Simone? Certo, ho 32 anni e da quando ho 5 anni che vado in campeggio. Prima con i miei genitori, poi da solo mi si compra una tendina piccola, poi con l'andare del tempo e capendo le dinamiche del campeggio la sono comprata sempre più grossa. Ora vado in campeggio in due con una tenda a 5 persone verandata. È di quelle che c'hai la verandina che viene fuori davanti e ti fa ombra? Cioè, no, di quelle che la verandina che posso chiudere e ci posso anche mangiare sotto eventualmente piovesse. Ma scusa, quanto costa una piazzola per una tenda così? Ma uguale una tenda, un igloo, 4 posti. Ma scusami, quanti metri quadri è sta tenda? No, metri quadri non lo so. La piazzola non va a spazio che occupi? No, dipende, in Corsica no. Ma in Corsica no? Sono le piazzole libere, c'entri lì, sì, va bene, allora mettiti, sì. Ok, un po'. Tu sei di Livorno, giusto? Sì. Ok, quindi è un po' la livornese. C'entri lì, va, mettiti. Sì, bravo. Okay. Come i corsi poi sono persone, finché non li fessi i piedi, sono persone. E poi anche un discorso di conoscere gente. Cioè, se te vai in albergo, ti limiti a uscire di camera, chiudere la camera e andare giù, capito? Okay. Ma però la posso conoscere in spiaggia, per strada, la gente. No, Simone. Non è uguale, perché... Non è la stessa cosa. Sei lì a fare da mangiare, no? Sì. No, perché sei lì che prepari. Io quest'estate ero andato a pescare, mi ero preso il mio pescino. Ero lì che preparavo pescino, accanto c'era della gente francese. Certo, e condividi. È uno scambio interculturale che in altri posti non Simone, puoi fare. Rifletto su questa cosa della condivisione, grazie mille. Ciao, alla prossima. Ritrovaci. Va bene, ciao. Andiamo in provincia di Venezia, Federico. Pronto, Federico? Pronto. Ciao. Ciao. Dai, convincimi. Allora, convincimi. Io invece ho una tenda che sta sopra una macchina. Ah, come si chiama? Come si chiama? Maggiolina. No, non la maggiolina, quell'altra. Comunque, vabbè. Okay. Ti posso garantire, allora, sabbia non ne entra. Okay. Ti dorme al fresco, si sta bene ed è assolutamente rapida. Io mi muovo, dormo e poi mi muovo e viaggio. Okay. No, ma questa, guarda, ti dico, teoricamente mi piace questa idea, che nella macchina c'è la casa. Ma il bagno? Cucinare? Cioè... Ma perché bisogna essere un po' animali? Ah, ok. Non fighetti. Va bene. Allora prendo questo come insegnamento. Sarò un po' più animale e meno fighetto. Grazie mille Federico. Ciao, grazie. Ciao, alla prossima. 800240024, visto che molti di voi mi hanno detto che questa lista dei desideri è da completare, io al momento vi faccio sentire ancora quella che è originale, ma ci stiamo lavorando, per cui coi soldi che faccio dalla vendita io farò queste e forse anche altre cose. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. 16 e 26 minuti, questa è stata Vendo Tutto. Grazie a Pietro Lacorte, Laura Faggina, Alessandro Genovesi, Tiziano Bonini. Io ringrazio tutti quanti per i loro consigli. Mi è arrivato un consiglio per far sul brevetto di volo e naufragare sull'isola di Lost. Li considererò e li infierò nella mia lista. Invece domani si continua la vendita, eh? Domani è la volta della mia penna stilografica Mont Blanc nera con rifiniture in acciaio, vinta ad un concorso di bella calligrafia e usata una volta, visto che praticamente scrivo con la penna sfera. Quella di oggi invece era la storia della mia tenda da campeggio. Per vedere e comprarla, andate sul sito radio24.it e mi raccomando, non fatevi scrupolo di liberarvi delle vostre cose anche voi, perché alla fine una tenda da campeggio è solo una tenda da campeggio. Love, love, love.